Buongiorno Marco. Buondì, un breve telegramma, non di integrazione della rassegna stampa, della stampa quotidiana, ma vorrei segnalare che un settimanale, Left, questa settimana ha davvero uno straordinario impegno sul fronte, come dire, scontro fra clericali e laici, davvero un numero straordinario, molto bello, vorrei felicitarmi e vorrei quindi suggerire a tutti i nostri ascoltatori di comprare l'Est, che davvero mostra con questo numero che una presenza laica nella stampa settimanale, forse unica probabilmente, esiste e va anche incoraggiata, ma certo è invece anche un interesse egoistico per tutti coloro che si occupano di libertà, di laicità e innanzitutto anche di libertà religiosa, credo che possa utilmente oggi prendere questo o prenotare questo settimanale, il settimanale Left. Segnalerei un intervento molto chiaro di Mario Scaglierini e un interessante articolo anche del professor Fagioli. Buongiorno, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie allora a Marco Pannella anche di questa segnalazione.